gli spacchi il ginocchio, le valenche alla commessa del mio minore. Allora, sì. È stato una tenera, facciamo la tenera bianca. tagliare Mauria. Non lo so. È da Salino, non ho sentito. Ascolta roba, dammi un consiglio, io voglio parlare, le bombolette buone, ma non è un consiglio, devo riorganizzare la vostra, la faccio un altro colore. Io non mi so per. Qualche bomboletta buona, di marca buona. Marca buona, se vai alla Maxi Smeger le trovi, diciamo, perché sono una vita che fanno le bombolette, sicuramente sono più affidabili, ma costano molto di più delle altre. Però le da bricco, quella che ti prendi, quella che ti esce, ti billi. Ma vabbè, se costa 2 euro in più, no, non è quello il problema. Tanto con 3, con 1 a fare il fondo già basta, 2 là, poi 3 di vernice, va bene, a voi la vernice la mostro. E che cosa devi fare? Boh, la faccio, forse grigio metallizzato, se vediamo. Ah, mamma mia, la capelli Luca, te c'è una gaggata. Guarda, tu non ce l'hai bianca la mostro. Faccio la bianca che è un colore sempre pulito, i difetti si vedono molto di meno, grigio metallizzato che c'è una cagata, deve essere perfetto il supporto, non ci devono essere perfezioni, poi ci vuole trasparente sopra, se vuoi fare. Guarda, metallizzato dimenticatene, non va, se no che c'è una cagata. Oppure nero opaco, non lo so, vediamo, cioè più che nero opaco nero lucido. No, nero lucido no, al limite nero opaco se ti vedi una moto spartana, dico così. Niente di particolare, se no bianca è l'ideale, io dico sempre bianco, non te ne penti mai, sempre pulita, si vedono meno difetti, nero è, si vedono tutti i difetti. Però volevo fare gialla, non brutta gialla. Immagini, basta la gara, dopo una settimana te ne sei già fraccato, lascia la bianca che è bella, te la rifinisci bene, magari se c'è qualche pezzettino te lo fai bene ed è sempre pulita la moto, poi stacca perché c'è la sella nera, le gomme nere, tutti i particolari si vedono di più. Ma non seguivo il ventino, paro. Esattamente, però è bella. Noi abbiamo, sai, il primo zitto di sasso l'abbiamo fatto noi bianco. C'era mio fratello, uno, ma non te l'avete, però ho fatto bene. Vabbè, non so che è bello bianco. No, l'ho fatto bianco. L'ho messo qua, praticamente, ho lasciato a cambiarmi la gomma, se mettevi la cavana d'aria dietro, perché se ne scendeva sempre la gomma, perché il cerchio è... si è marcito dentro, voleva carteggiato, riverniciato, se no perdeva sempre la gomma. Come l'ha messa la moto intera con l'imbecille, quello che c'è lì di fronte al, come cavolo si chiama, alla bunker, cavolo, ciò c'è un po' il pieno, e mi ha fatto la benzina sopra, la vernice me l'ha tutta mangiata, fate il tasto scialere. Vabbè, ti fai solo quei pezzi di una carteggiatura leggera leggera, lo rifinisci alla fine e gli fai solo i pezzi rovinati, la trova svivata del tempo. Che colore era? 224, 249, che colore avevi usato? Bimbo. Bimbo. Cioè cos'era Fiat, che marca era? Non lo so Roma, non lo ricordo, non mi ricordo il numero. E allora te la devi rivendicare tutta, no? Paghissima. A meno che non ti avvicini, cerchiamo un'officina con la mazzetta, il colore più vicino, e ti dico, mi fidati la bomboletta 224, 249, 233. E adesso in primavera, se il tempo ce lo permette, lo faccio. Perché, guarda, la vita non dico che è proprio perfetta, ma già non andava bene, perché come la prima ti ha spaccata, ti ha fatta, no? Non andava bene, Robert. Insomma, mi sono accontentato ugualmente, anche se non ci sta bene. Però non gli ho dato il tempo a farla asciugare, siccome la carena grande, quella che va avanti, la stavo piazzando, siccome mi stava asciugando, ho appoggiato il ginocchio col jeans e mi è rimasto il segno, infatti si vede ancora. Bravo, la bressa amara, si fanno le cose, si fanno con calma, la vernice oggi e domani la piazza, non si fanno mai così, soprattutto le verniciature, bisogna dare il tempo di asciugare bene bene, poi ci metti le mani e arrangi il tutto. Non so, era fretta di piazzare la moto, vabbè. Ma quel giorno c'era anche, guarda, beh, un po' di venticello c'era fuori, tutta la polvere, per caricare. Ma poi cosa stavo del brutto? Che stavo verniciando, beh, però proprio prima gli ho dato la prima passata una leggera velocità, ho fatto asciugare un po' e poi ho iniziato a verniciare. Cavolo, alla fine inizia a gocciolare questa bomboletta, porco buio, giusto, alla fine, quasi finita, andava bene, io ho continuato, proprio a finire la bomboletta, tutta piena di gocce. E tu devi farlo, si fanno tutti gli angoli, tutti i bordi prima ti fai, e poi hai una velatura tutto quanto in giro, la lasci fissare 10 minuti, dopo che ha fissato gli dai l'ultima mano, in due mani lo fai. Infatti, attimo altro un tipo che era Mario del Palma, si era carrozziere, panicciattolo, lui era, lavorava con lo zio, con un boattone, lo conosci? Allora, ci rimane la sigla. Ciao le boattone. Non lo conosco allora. Cazzo, lui c'era il programma di Chirotti, l'officina. Ma da soli non ti lavorava? No, ho fatto il fuori boattone con lo zio di Mario. Aspetta un attimino, ma tu sei da quella carrozzeria che adesso hanno fatto il palazzo nuovo? No, no, mi sembra che c'è un fabbro, un alimentare, forse. Ma giù vicino a Via Sosso, sta dicendo, questa è una parte bassa. Ah, fine di Davaghiotti quasi, praticamente di fronte dove c'è una ringhiera. Ma sulla destra scendendo? Cappa. Ecco la ringhiera di Solina sulla carrozzeria. Cosa mi gioco? No, c'era, lì c'era coso, come si chiama, boattoni, ma tanti anni fa a me, no, adesso, ma tanti tanti anni fa, ero piccolino io. Ehi, te lo sto dicendo, tu stai parlando della carrozzeria Solina, e più avanti c'era il fabbro, c'era il figlio Mario e Giancarlo, sono amici miei, il padre era il signor Gavino, e poi c'era il signor, allora non mi ricordo se si chiama Nino, signor Antonio, Nino lo chiamavamo. Ma buono, non lo so, Robè. Non lo dacci. Comunque c'era, era lì, era lui, perché quando ero piccolino andavo, come fa andare il pedale della bicicletta, molte volte mi si troncava la bicicletta, perché sono come muretti, non facevo soldare la bicicletta. E allora voleva sempre 5.000 lire, 10.000 lire, prima dicevo 12 anni, 13 anni. Cappa, ma tu stai dicendo quella che c'è un cancellone grande dentro, che si entrava dentro? No, no, una serranda la roba, una serranda e basta, piccolo dentro, piccolissimo, ci stavano due macchine massimo. Ah no, no, questa era grande, allora stavo dicendo un'altra cosa. Praticamente De Marghinotti, tu come arrivi giù De Marghinotti, scendendo sulla destra, dopo quella semicurva lì, più avanti sulla destra c'è un, non so se c'è un, come cavolo si chiama, un fab, no un fab, un alimentare forse c'è adesso, oppure c'è quello in fissile in alluminio. Già capito come stai dicendo tu, no, no, io stavo dicendo un'altra cosa. Oh Luca, ti saluto, io adesso vado giù di nuovo in officina. Saluto a tutti quelli che stanno ascoltando, alle prossime, ciao a tutti. Ciao, ciao Roma, ciao, buon lavoro, alle prossime, ciao. Quindi quello che ho finito a parlare. Ehi, c'è vabbè, ma almeno ti pagano straordinari a te. Lì lì non ti li pagano a me gli straordinari. Ma tutti uguali, so, ma poi è inutile. Solo che non ne pagano, capito? Siccome il lavoro ce n'è poco e quindi ne approfittano i signori. No, ma loro hanno un vocabolario tutto particolare, lì. La parola straordinari non è scritta in quel vocabolario, quindi non sanno cosa vuol dire. È appunto per quello, Paolo, non sanno cosa vuol dire. Dove scendere la madre stasera? Come sta? Oh, la vado come ricoverare, mi ascolti da quanto ho capito, quindi è un po' impegnato in questi giorni. Beh, tu che non ho sentito a sapere qualcosa. Eh? Sapere qualcosa della mia maniera. Ma che non sta bene, quindi dove devo ricoverare? Sta più male? Eglia. Manca mai, no? Sacco io, ogni tanto ce n'è una, capito? Cazzino, adesso lo posso fare, che mi devo chiedere, non posso camminare. Brava, brava. Adesso non lo so quando la ricoverano, boh. Anche operare a quanto ho capito, e quindi non si sa. Adesso è tutto da vedere. Ok, riprendi paletta. Ciao ragazzo, non ce la c'è per lì. Buonasera, buonasera. Dove è finito quel malinconio di suo figlio? Dove è finito? Il mio figlio è in anticamera. Ah, un faccio sta facendo, già va bene già. Allora, io sto rispondendo da Maria Luisa, ero. Un attimo che rispondo al telefono. Così è Ciacateri, è così. Sì, ieri c'è un telefono, ho fatto una puntura da mia nipote e il ginocchio. Oh. Chiamato dall'ufficio, Fra, mi ha detto dove sei? Se poi non c'è da fare niente, mi vede passare davanti al deposito, ma non eri a Cagliari. Prendere in giro ogni tanto sì, ma poi spesso ce la fiaccano, Fra. Ecco, la gappa. Va bene, glielo dici, magari ti aprisci presto, magari qualche bella consegnare. Qualche maledizione gli sta venendo a testa che stasera. Ma loro in casa già lo sai che sono in giro da ieri notte. Poi te l'ho detto, tocca lavorare anche domani mattina, quindi. Cioè, ma riposo voi non ha fatto niente, Paolo. Quando si può fare riposo, quando che no, si lavora. Tutta una tirata, dai. Vada, vamos. Ma sai cos'è di quello? Che quando poi due anni fa entrata in vigore la legge delle ore, tutti pensavamo che ci sarebbe lavorato di meno. Invece noi di più stiamo lavorando, Fra. Però questi erano una pregatura questi euro, boh. Noi dovremmo fare 9 ore al giorno, dobbiamo farne 15, 16, 18. È quella ora più gazzate, dell'efficienza. Allora, alla gloria quella, alla gloria. Sì. Loro si ingrassano e noi ci consumiamo i tacchi, così si dice. Ma se ti lamenti, magari nel mese c'era una giornata che hai fatto solo 7 ore. Fate così. Ma non sapentali che dopo un mese che magari hai fatto 5-6 disturbati di disottori, Fra. Che se non ce la mettevi mai? Non lo so, è così. Magari se ti devono scalare anche su, ti scalano anche quelli. Allora tu qui stamattina ho chiamato apposta, Cagliari. È un conteggio di gennaio che non mi quadrava, gli ho controllato, me l'hai. Mi ha detto sì, infatti ti faccio il conguaglio. Quanto prendi il stipendio di media? Ma di media, non di media, fisso io prendo 1.500. Solo? Che cosa ti credi che mi danno? Te lo comincio almeno 2.000, 1.800. Il lavoro che fai, almeno 2.000 euro, ho detto. Lì 20, Fra, lì 20. Poi qualcosina la raggiungi se ti fai gli extra con gli scarichi, ma se no il fisso su 1.500. Io lo prendo dalle 1.280, 1.300. Ma c'è gente che prende anche 600-700 euro, Guarda che c'è gente qui a Sassari, facendo il collezzame, 2 viaggi al giorno, facendosi tutte le consegne del collezzame, sono per meno 750 euro al mese, Che ha lavorato collezzame, mamma mia! Io per 750 euro, manco da un mi diviso un mazzano. in definitiva così. Buonasera Gianni, ben ascoltato. Ciao Paolo. Non mi senti letto, non è ancora finito. Saluto Gianni, salutoni Paoletto appena. a Bianca, sotto neanche a Luca. Te l'ascolta le prossimine. Ciao, ciao, buon proseguo Paolè, te la riascolta, ciao. Ciao, ciao Paolè, ciao a tutti. Ciao, triche malacche. Ciao, ciao, bruscio, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Paolo, ma adesso si riposi domani. Per carità di Dio. Questi messaggi che siamo fatti di lei, avanti. L'ho perso. Altri che malati l'ho perso. Paolo, non ascolto più. Io ti ascolto lontano. Ho detto, Luca dice che ti ha perso. Ho detto, chi se l'ho fatto di ferro questa gente? Facciamo un po' di riposo, non si trova bene. Io ieri ero a riposo, ma non va a pigliarlo. 50 volte ho dovuto dire, guarda che dalla mattina c'è delle ore da recuperare ancora. A casa, poi. Andare. Io. Che strano. Luca, è un bar. No, alle 10 di notte, in 10, non stava, ci stava, c'è lì, trova niente. Vabbè, lo so, purtroppo già lì lo devi fare, se non lo fai ti mandare. Lo so, ma non va bene, no. Siamo fatti in carne e ossa per tutti. Lo so. Ho mangiato la minestra, ho salti da un vascone. Sì, ma non mi sembra giusto, non mi sembra giusto nei confronti, infatti, non mi sembra giusto. Vabbè. Già, è così, La verità che la camionista è dura, È dura la mia, ma chi sei camionisti che sono sempre andati? Luca, adesso puoi dire a me, no? Stiamo prendendo anche mobili, perché prendiamo di più mobili con cassettiere, quelli non carburanti, ma pesanti, mosse, che cose. E stasera c'è la consiglia di un mobile, e lui ha detto che quando c'è un mobile di telefonare al cliente di cercare qualcuno che ci aiuti per portarli su. E lui non può mandare due persone. Quindi già lui sta facendo il favore di portarli, eccetera, eccetera. L'ho detto la cliente, ma il mio marito lavora fuori. Io ho due bambini, se no li ho dato la mano io, ma non posso lasciare i bambini su. E non posso fare nulla. Adesso non so cosa fare, stasera se devi guardare i robot, oppure cosa fare, o rischiare magari di lasciare il mobile che mi ringrazia e faccio male. Un casino, se il mobile è presa, forse è stato leggero, vabbè, è stato quanto, ma se è pesante, bisogna essere in due. È pesante, ricco di noce, capito? Tipo di suizi, di cassettieri, ti rappresenti, tipo come occa, come cassettieri. Gaffa, gaffa, boh, vedi tu cosa fare. Cosa? Ma detto, vedi tu cosa fare. Ma non ci vado della persona fatta, no. Aspetti uno dentro il marito, vai a cercare meglio, perché? Sì, il marito è fuori che lavora, capito? Non hai capito se lavorando fuori il marito di questa signora? Vedete, mi vende a Bari da Milano. Ah, adesso sono fuori Sassari. No, è fuori che lavora, se no me l'avrebbe detto lì stesso, la vigna a quell'ora. E a te si busca qualcuno del palazzo che mi dà una mano. Paga, allora se ti busca un ragazzo, tramite principale io lo posso far pagare. Cosa vuol dire? Forse l'avevo preso, non vuole pagare la tragedia, è una sola di persone, per pagarne sempre una. Allora, di là di Cassiguetto. Tutti così stanno diventando, capito? Non sentono ragione, io non ce la faccio solo lei, quando non ce la fai che mi aiuto che vengano loro, i suoi capelli non ci venga a prendersi il mobile. Quando io sono la faccia la faccio queste cose. Ma sono lì, ci ascolti, io questa figura non la voglio fare. Ci vai tu o lì. Cioè, figure di capo, ora. Sono cose assurde che ti fanno dire. Il cliente ti dice, ma voi avete offerto questo servizio e normalmente a me quando mi portano i mobili mi riportano in giro. Quando ti portano in giro, ma è ma non è il nostro lavoro portare i mobili, noi lo facciamo per fare un favore. Gappa, tu pure spese consegni. Tutto. Gappa, cosa vuoi che ti dica già? Cosa vuoi che ti dica? È un casino la com'era, è lì. Bisogna essere in due, se ci sono cose Cioè, mobili, come farà solo? È un mobile, è una cassettiera, ma facendo la camera non mai metto più vicino, ma c'è l'ascensore, ma non la fatti lunga, non me la piglio sia l'ascensore. Non si può, scusate se serve, lo dico, quando entro la prima cosa che faccio, cosa facciamo con questo mobile? Infatti, sono l'unica, prende un magazziniere, due secondi, va e lo consegna. Non ce ne più magazzinieri, ci sono solo io. Che cazzo? Con le altre che c'era l'hanno finito il contratto, ma l'hanno non va. Bobo. Ma già ho parlato per il padre. No, ci avrà 60 anni, 62. Se no ti dica, se ti arrangiati, se no sono da dirti, se non c'è, se non c'è nessuno, come fai? Non, è l'unica, li ho lasci lì e poi vengo loro, se lo ritiamo loro, se non ce la fai, devi essere in due, per non far danno devi essere in due, ce lo sali, ma da solo, ma ok, leggero, va bene, ma se è pesante no, e lo fa portarlo, ma si sente. È un casino, se lo devi caricare magari in spalla, come fai con i figuri, se va con calo di Nivara, se te ne scende di colpo si fa cacatito. No, no, ma non mi so con te, ma sto lontano le cose. No, ma c'è delle linee. Ma fai venire, perché qua ti fai una mano a lui, visto che non vuole parlare un altro? No, ma quel ragazzo lo trovi, ti fa un giro, lo trovi, no, ti ho tolto, ma la mano. Vedi, 15-20 euro, che ragazzo è la mano? Ah, se lo devo pagare io? No, sarà, no. A parte che loro non vogliono che tu sei di gente che non lavora lì, perché se si fa male o che cosa, e sarai in abu. Ehi, avanti, ti fa. Thank you.